Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tu, figlio mio, devi diventare un uomo. E diventare un uomo può voler dire essere cattivo come il mondo, essere duro come il lavoro, essere furbo fra i furbi. Specialmente se vuoi diventare un imprenditore di successo. Mi chiamo Lorenzo, ho 40 anni e vivo in provincia di Bergamo. Sono commerciale prodotti industriali per un'azienda inglese. Ci sono dei lavori, dei mestieri, che ci si passa di padre in figlio. Da figli si cresce con l'immagine del padre come quella di una sorta di divinità, una persona capace, una persona apprezzata e per certi versi una persona irraggiungibile quasi, una figura irraggiungibile. Ci sono dei figli di musicisti, ad esempio, che in quell'ombra lì ci muoiono, oppure figli di capitani d'azienda che marciscono in quel brodino pronto e tenuto caldo dal padre per loro. E rimangono per sempre dei figli, anche a 50, a 60 anni. Il problema diventa ancora più grande quando quel padre lì non ha la lucidità o la lungimiranza per abdicare, per passare l'azienda e le responsabilità in mano al proprio figlio. Oggi parliamo proprio di voi, di tutti quei figli che hanno avuto il coraggio e la forza di smettere di essere figli, allontanandosi dal proprio padre. E per farlo hanno dovuto lasciare la scrivania che il padre gli aveva preparato e soprattutto l'azienda, che non aveva nessuna intenzione di mollare lui. Si parla di uccidere i propri padri, di sapere prendere le distanze è una propria e unica strada. E se non è lui a farlo, tocca farlo da soli. Tagliare quel cordone ombelicale che diventa sempre più difficile tagliare quando è fatto di stabilità, di sicurezza economica, di un posto fisso, magari con l'auto, lo stipendio e il cellulare garantiti. Oggi si parla di andarsene e di smettere di essere figli per diventare tutto il resto. 800 24 0024 è il numero per chiamare in diretta, oppure se volete mandare un sms 349 238 6666. Oggi però vorrei proprio sentire la voce delle persone che hanno fatto questa cosa, che è la cosa che ha fatto Lorenzo. Ci sono puntate che lasciano un segno più di altre, ci sono puntate che per scriverle, non parlo di me, parlo dell'autore di questa storia, ci vuole più coraggio di altre. Ed è il caso di Lorenzo, che racconta proprio di come si uccida in maniera figurata l'immagine del proprio padre per prendere la propria strada. Lorenzo lo fa in una maniera che è figurata ma non troppo, prende le distanze in una maniera piuttosto fisica, direi, e tra poco sentirete la sua storia. Storia, tra l'altro, che lui ha scritto, gliel'ho chiesto anche prima e magari glielo richiedo anche più tardi, ha scritto al volo, l'ha scritta infatti con un iPad, che è complicato perché c'ha il touchscreen, ma lui mi ha proprio detto: questa roba o la scrivevo quando ho sentito che era il momento di farlo o non l'avrei più scritta, quindi qualsiasi cosa aveva sotto le mani andava bene, era un iPad e l'ho scritto con quello. Se siete figli di padri che hanno avuto un'azienda, piccoli o grandi imprenditori, grandi dinastie o piccole famiglie con enormi tradizioni imprenditoriali, oggi è la puntata per voi. 800 24 0024. Se avete voglia di raccontare quella storia lì, il modo in cui avete smesso di essere dei figli e finalmente siete diventati qualsiasi altra cosa, padri va bene, ma appunto imprenditori, ma anche se avete deciso di fare altre strade, questa è la puntata per voi. Se magari siete di quelle famiglie che avevano il nome del cognome e figli, siete perfetti. 800 24 0024, oppure 349 238 6666. Tutto perché Lorenzo a suo padre, una volta, che è stata l'ultima, ha dato uno schiaffo. Ognuno di noi ha i propri aforismi preferiti, attaccati in giro per la casa o per la mente. Non credo che ci colpiscano perché siano necessariamente più profondi o più belli di milioni di altri, ma solo perché li sentiamo nostri. Il mio aforismo è abbastanza sconosciuto. È una frase di Jean-Paul Sartre. Dice così: quando i padri hanno dei progetti, i figli hanno dei destini. E bisogna intendersi sul significato della parola progetto. È abbastanza comune, ad esempio, che il padre avvocato voglia il figlio avvocato o professionista di successo. Insomma, in genere il padre intende un progetto professionale o al massimo familiare per il proprio figlio. Il mio no, il mio è uno dei casi più difficili. Il padre intendeva proprio un progetto di vita. Tu figlio devi diventare un uomo, e diventare un uomo può voler dire essere cattivo come il mondo, essere duro come il lavoro, essere furbo tra i furbi, specialmente se questo padre è un piccolo imprenditore di successo. È un'azienda che fa lavorazione meccanica, è un tipo di lavorazione abbastanza standard nelle zone del nord Italia. La peculiarità è che lavora plastica rispetto ai metalli, però è un'azienda meccanica classica, quindi un'azienda coi tuorni e le frese. Abbiamo resistito 20 lunghi anni, dai miei 20 ai miei 40, vivendo fianco a fianco al lavoro, ma lontanissimi nel significato profondo della vita. Mi ricordo in modo vivissimo quei pochi secondi prima del fatto che sto per raccontarvi. Mi ricordo benissimo di essermi avvicinato e di aver detto dentro di me: ora è proprio la fine. Sì, perché di fronte al solito "ma tu non vedi, tu non capisci, tu non fai", in modo assolutamente lucido mi sono avvicinato alla scrivania da dove urlava e con piena forza e massima estensione del braccio, come il miglior tennista, l'ho colpito con un perfetto e sonante schiaffo. Io credo che uno, per carità, può accettare tutto, ma non dico l'orgoglio, ma la dignità. Io dal mio punto di vista mi sentivo calpestato nella mia dignità di persona. E sono quei colpi che arrivano all'improvviso, ma forse neanche troppo all'improvviso, perché sotto c'è l'abbraccio che per tanto tempo lavora. Io so solo che in quel momento non ero fuori di testa, ero molto lucido. In un tardo pomeriggio di luglio, in pochi minuti, io ho perso il lavoro, i colleghi, i clienti, i fornitori, l'auto, il PC. Sono passato dal benestante quasi ricco a disoccupato con un figlio di 6 mesi. Lui ha chiaramente scelto la sua azienda, il suo capannone, il suo amato lavoro. Non ha mai visto suo nipote e non ha più rivisto me. E io non posso provare né rimorso né pentimento, ma porto sempre con me quella frase: quando i padri hanno dei progetti, i figli hanno destini. Per ricordare che mio figlio avrà sì un padre che farà errori, ma non quello di scegliere il futuro. Lo schiaffo, chissà perché, l'ho sempre associato alla stretta di mano. Forse perché sono entrambi gesti rituali, non lo so, dei gesti in cui il valore simbolico è più importante del gesto in sé. E racchiudono entrambi una grandissima forza emotiva. Lo schiaffo non è un pugno, o un calcio, o uno spintone. Non è una litigata qualsiasi. Lo schiaffo di solito è improvviso. Il braccio si carica, la mano si apre, e la guancia restituisce uno schiocco rotondo. E di solito chi schiaffeggia resta saldo sulle gambe anche quando il gesto si spegne. E chi è schiaffeggiato resta quasi sempre immobile, con la bocca aperta per lo stupore. Non è il dolore fisico di un dente spaccato, di un naso rotto, di un occhio nero. Lo schiaffo infligge un dolore morale con cui devi fare i conti. Si schiaffeggia colui che ha perso conoscenza, ad esempio, per richiamarlo alla realtà. Uno schiaffo in senso lato è un'umiliazione che resta appiccicata addosso. Uno schiaffo morale, appunto. Oppure lo schiaffo è anche un gesto di congedo. Leggevo che nell'antica Roma lo schiavo veniva liberato dal suo padrone con un affettuoso schiaffo di congedo in presenza di un pretore. Lo schiaffo ha anche avuto un valore educativo, a scuola, in famiglia, anni fa, ovviamente. Chi non si è mai sentito dire "qualche schiaffo non ha mai fatto male a nessuno"? O gettare il guanto di sfida era una botta di schiaffo che andava lavato col duello, ad esempio. Consideratevi schiaffeggiato. A volte bastava nominare lo schiaffo per duellare a morte. Sì, lo schiaffo è un rito di iniziazione. E lo schiaffo della storia di Lorenzo si carica di gran parte questi significati. Non è una semplice ribellione. È un gesto che segna la cessazione definitiva a una sottomissione. La sottomissione di un figlio che a un certo punto dice: basta, tu sei mio padre, ma io sono io, scelgo io, sono io che ti piaccia oppure no. Padre e figlio. La storia del cinema o della letteratura è piena di questi argomenti, di queste storie. Gli psicologi si sono arricchiti grazie a quello che succede fra padri e figli. E che deve arrivare un momento, naturale come lo spuntare della barba negli adolescenti, in cui devi uccidere, metaforicamente, tuo padre. Devi farlo, altrimenti sarai ucciso da lui. Mi ricordo un compagno di università che voleva fare l'attore, e invece ha fatto l'università, per non dispiacere a sua mamma in quel caso. Voleva girare il mondo, ma si è fermato in provincia per non fare preoccupare la mamma. Oggi cerca qualche lavoretto per tirare su qualche soldo, di nascosto però dalla mamma, perché lei ci rimarrebbe male a sapere che suo figlio cerca lavori qualsiasi. Lui è una delle persone più colte che io conosca, ma dovrebbe appoggiare per una volta un libro, caricare sto braccio, allargare la mano e mollare quello schiaffone con tutta la sua forza su quella bella faccia paffuta della sua adorata mamma. La storia di oggi però mi ha fatto ricordare un episodio particolare, in realtà, un episodio della mia famiglia. Avete presente Zampano, il personaggio di Anthony Quinn nel film La strada di Fellini? Ecco, il protagonista di questa storia è uno Zampano. Siamo nella prima metà del Novecento. Quell'uomo, Zampano, si sposa e dal matrimonio ha due figli, un maschio e una femmina. Quando i figli sono ancora piccoli, la moglie muore. È appena finita la guerra e un uomo solo con due figli è un disperato. La figlia più grande va in collegio, studia, si trasferisce in città e lì ci resterà, dimenticandosi di quel padre disperato e di quel fratellino sperduto senza la mamma. Zampano vuol dare al figlio un futuro migliore del suo presente. Lascia il figlio da qualche parte e parte per l'America. Il figlio però non vorrebbe un futuro migliore, vorrebbe un presente con quel padre. Lui, dopo qualche anno, torna dall'America, si riprende il figlio e si risposa. Si risposa per dare una nuova famiglia a quel figlio, ma il figlio si sente ancora una volta messo nell'angolo. Cresce muto e timido. Gli manca sua mamma che è morta e non riconosce più nemmeno il padre. Lavora per il padre, si costruisce una casa come piace al padre. Il figlio si fa una famiglia e il padre non si accorge che qualcosa è cambiato. E tutte le sere si infila a casa del figlio non invitato a spiegare i suoi motivi e tutti lo devono ascoltare. E tratta il figlio come un bambino di fronte a sua moglie e di fronte ai suoi figli anche. Zampano piano piano invecchia, si ammala, ha bisogno di attenzione e di cure. Il figlio e la moglie ovviamente gliele garantiscono. Poi muore e in eredità gli lascia la matrigna che il figlio non ha mai sopportato per 40 anni, che nel frattempo è invecchiata anche lei e ha bisogno di attenzioni e di cure. E il figlio e la moglie gliele garantiscono. Ormai il figlio è diventato vecchio e tutte le volte mi racconta questa sua storia a ritmo di una parola e una parolaccia e le finisce tutte le volte raccontandomi la sua personale vendetta. Mi dice quante volte gli ho svitato i bulloni delle ruote della macchina. Avrei voluto che morisse. Non è facile essere dei figli, però penso che se la vita smette di aiutarti, sono convinto che sia ancora più complicato essere padri. Ecco, questa puntata è dedicata a tutti quelli che quello schiaffo lì ancora lo devono dare. Ha toccato la storia di moltissimi questa storia di Lorenzo, ha toccato le corde, le vite, le storie, forse le guance di moltissime persone. Adil, ad esempio, scrive dal Marocco, che dice: io sono andato via dal Marocco per colpa di mio padre, non voleva più che facessi il fantino, adesso lo faccio qui in Italia. E poi invece c'è un messaggio di... non si è firmato. Non pensavo esistesse una storia uguale alla mia. Anche per me è iniziato tutto con uno schiaffo. E oggi, con una moglie e due figli e mezzo, sarà incinta probabilmente la moglie, mi conquisto da solo e con dignità ogni centimetro di futuro. Io sono qui, se volete, e magari più tardi ci sentiamo. 800240024, se avete voglia di raccontare la vostra storia grazie alla quale avete smesso di essere dei figli, e tutto è nato grazie a uno schiaffo e soprattutto grazie a Lorenzo. Pronto, Lorenzo? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Sei ancora in aeroporto, mi dicevi prima? Sono in aeroporto, sì, sono in aeroporto. Spero che non sentiate qualche voce. No, no, ma non è un problema, anzi. Se posso, dov'è che stai andando? Sto tornando, sono in Germania, a Stoccarda, e torno a Milano. Ah, ok. Perché adesso, Lorenzo, diciamo, innanzitutto ti giro i complimenti e le congratulazioni di un sacco di persone che via SMS hanno scritto, da grande Lorenzo a dovrei farlo anch'io, oppure io non ho ancora avuto il coraggio di farlo, ma tant'è. Lorenzo, quando succedeva questa cosa? Succedeva nell'estate del 2010. Quindi 2 anni... Luglio 2010, 2 anni e mezzo. Quindi 2 anni e mezzo fa. Sì. Tu da allora hai trovato un altro lavoro, ovviamente, nello stesso campo? Ho trovato un altro lavoro, sì. Sempre più o meno in un campo simile, però niente a che fare con la vecchia realtà. Sì. Nel senso che prima tu lavoravi nell'azienda di famiglia, di fatto, e avevi, immagino, un ruolo dirigenziale, sì, si può dire? Esatto, ero il figlio, sì, chiaramente era un ruolo privilegiato, sicuramente. E adesso invece sei un commerciale. Sono un semplice dipendente, sì, un commerciale, un semplice dipendente, come tanti altri, un impiegato. L'altra domanda che viene naturale fare è, tu non hai più rivisto tuo padre? No, più. Cioè, neanche incrociato, neanche sentito, zero. Ma non abitate vicini, non c'è modo, non ci sono luoghi in cui... 10-15 chilometri, però sinceramente no, finora non è mai successo, neanche al supermercato. Ogni tanto me lo chiedo al supermercato o così, però no, non è mai successo. I tuoi sono separati, mi dicevi prima, quindi... Sì, cioè sono divorziati. Sì, scusami, divorziati. Quindi con tua madre continui ad avere un rapporto, immagino. Continuo ad avere regolari rapporti, esatto. Ma non hai neanche mai avuto la curiosità di sapere che cosa stia accadendo? Non hai mai visto più ex colleghi o... Diciamo che sento magari qualche amico in comune, qualche vecchio collega, però niente di che, niente di particolare. Sono più i pro o più i contro di quello che hai fatto? Ma sicuramente attualmente sono relativamente felice e non mi pento, non riesco a pentirmi, se mi pentissi forse ritornerei indietro. Ma nel momento in cui sicuramente non è bello quello che da un certo punto di vista ho fatto, perché è proprio un atto fisico violento, però ci voleva e non riesco a pentirmi di quello che ho fatto. Oggi ho la mia famiglia, ho il mio lavoro e vado avanti così. Come l'ha presa tua moglie quando le hai raccontato questa cosa? Forse non mi poteva dare ragione al 100%, ma penso che l'abbia presa, fra virgolette, bene, insomma. Senti, chiaramente non avendolo visto da 2 anni e mezzo e non avendo quindi voglia di farlo, non pensi che ci sarà un momento in cui sarà necessario vedersi? Me lo chiedo, però non lo so, non mi so dare una risposta. Senti, tu non hai fratelli o sorelle? No, okay. Ok, quindi insomma, non c'è nemmeno una via traversa. Senti, Lorenzo, io ti ringrazio per anche per il coraggio, insomma, che hai avuto per raccontare questa storia e per essere grazie qui con noi. Ti auguro un buon viaggio e in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao a tutti. Ciao Lorenzo, grazie ancora, ciao. Mio padre, scrive Giorgio, non mi lasciava nessuna azienda, ma un posto fisso da operaio dove lavorava lui. Dopo 3 mesi, i più brutti della mia vita, sono scappato. È veramente bella la foto che ci ha mandato Lorenzo e che trovate come al solito sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24. È la foto del giorno del matrimonio, immagino, tra lui e sua moglie, e hanno in braccio però il figlio che avrà 2-3 anni. Ed è una di quelle foto, sono quegli scatti che ogni tanto escono, quasi per caso, o magari no, invece magari era il fotografo del matrimonio. Sono sotto un pergolato, lui ride guardando il figlio in braccio a lui, sono entrambi elegantissimi, e la moglie tiene un braccio attorno al bimbo e guarda e indica un posto lontano sorridendo. Schiaffo, sostantivo maschile. Colpo dato sul viso con la mano aperta. Nel biliardo, tiro di schiaffo, quando si colpisce la palla dell'avversario facendo prima battere la propria contro una delle sponde lunghe, con un angolo molto acuto. Schiaffo morale, motivo di smacco e di grave umiliazione. Etimo, dal longobardo, slaff, colpo con la mano aperta, di origine imitativa. Data, secolo XIV. Ragazzi, questa, ringraziamo Alessandra De Luca e soprattutto Margherita Aina e il devoto Oli che ci spiegano che schiaffo deriva da slaff. Slongobardo, buonanotte. Longobardo, che è chiaramente onomatopeico. 349-238-6666, ma anche e soprattutto 800-24-0024. Si parla di uccidere i propri padri, metaforicamente, ovviamente. Ciao Matteo, con i miei gestisco da 10 anni un'attività di ristorazione. Non ho una famiglia, ma piuttosto tre colleghi. Una storia con una ex di 8 anni finita per il lavoro e il mese scorso ho detto basta. Ora sono disoccupato, cerco lavoro, ma dopo tante umiliazioni, dopo aver rinunciato a tutto dicendomi ma sì dai, lo fai per la famiglia, ho lasciato tutto e ora dopo 10 anni ricomincio a vivere, anche se le difficoltà sono tante. E poi ancora, sono figlio di una generazione di ristoratori, i miei fratelli hanno continuato l'attività, io sono la pecora nera della famiglia e a 18 anni sto ricominciando da capo. E poi c'è un messaggio di Lella che dice: valutiamo anche il fatto che i genitori tutto quello che fanno per i figli lo fanno a fin di bene, anche se alcune volte i figli si sentono soffocati. Sì, questo è un alibi, questo, quello del fin di bene a volte è un po' un alibi. 349-238-6666, ma soprattutto 800-24-0024. E allora andiamo a Padova, andiamo da Gigi. Pronto Gigi? Sì, salve. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove sei adesso? Mi sono fermato in autostrada perché così siamo più tranquilli. Bravo. Che lavoro fai tu e che lavoro faceva tuo papà? Allora, io faccio il fotografo, lui era un industriale, un importante industriale con un'azienda di oltre 500 dipendenti. E a 18 anni mi ha chiesto che cosa volevo fare. Io ho fatto la mia scelta. Finché guidavo rivedevo nell'asfalto la faccia di mio papà che ha ricevuto questo schiaffo morale perché figlio primogenito si aspettava ovviamente l'ingresso nell'azienda e io invece ho scelto un'altra strada. Schiaffo che io ho ricevuto di recente da mia figlia, speravo che lei entrasse con me, invece ha scelto un'altra strada. Quindi è una sorta di legge del contrappasso. Ma senti, perdonami, però io ho un amico che fa il fotografo e sì. che insomma fa un po' fatica adesso, a dire la verità, perché sì. Non c'è molto lavoro, che mi dice: tutti, guarda, facciamo fatica. Che lui mi dice: guarda, il fotografo lo fa o chi veramente ha un grande talento oppure qualcuno che è ricco di famiglia. Sì. Questa cosa è vera, lo chiedo a te che sei, appunto, che mi dici che tuo padre era un imprenditore con un'azienda di 500 dipendenti. No. Io mi sono fatto le ossa, ho girato il mondo, sto girando il mondo per portare a casa il pane per tutti, ma ho un gruppo molto importante, molto grosso, però sì, gli aiuti si hanno perché ovviamente hai la forza della famiglia dietro le spalle, sai che se le cose non vanno puoi anche ritornare. Sì. Però io non ci pensavo a questo, io ho voluto costruire tutto da solo. Mia mamma circa 4-5 anni fa ha visto 4-5 anni fa che cos'è il mio lavoro e cosa faccio con il mio lavoro. Che tipo di foto fai, Gigi? Ma io praticamente la mia passione è quella di documentare la storia della nostra industria e quindi sono sempre da un'industria all'altra e fotografo dalle navi agli aerei. E dove pubblichi? Dove escono le tue foto? Dove si vedono? No, non si vedono, non voglio che si vedano. Ogni anno ho fatto delle mostre in qualche città, quest'anno l'abbiamo fatta in Slovenia, a Capodistria. Okay, e rimangono aperti un mese e chi vuole se le va a vedere, certo. Esatto. Gigi, ti ringrazio molto e in bocca al lupo con tua figlia. Grazie a voi, complimenti alla trasmissione. Ciao, grazie. Andiamo a Bergamo, siamo sempre prima da queste parti, parliamo con Alessandra. Pronto Alessandra? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Dici che hai una storia simile a quella di Lorenzo. Sì, sì, mi sono assolutamente risentita come fosse la mia storia, durata un po' meno perché sono un po' più giovane di lui. Cioè? Perché io ho 32 anni, quindi vabbè, è durata un 6 anni circa. Fai conto che mio padre ha voluto che studiassi comunque qualcosa che poteva essere inerente all'azienda, che ha battuto i coperchi perché doveva per forza farmi lavorare lì. Io a un certo punto, quando la situazione è diventata talmente insopportabile, ho deciso di andarmene. Lui non mi ha parlato per 6 anni e niente, poi è venuto fuori che lui mi ha portato lì perché, essendo sua figlia, doveva portarmi lì, ma una donna in azienda non la voleva. Cioè è stata la cosa più umiliante che potesse dirmi. Scusami, che tipo di azienda era? Senza entrare nello specifico. Va vabbè, diciamo un settore simile comunque a quello del papà di Lorenzo. Ah, ok, ok. E adesso cosa fai, Alessandra, scusami? Io adesso faccio l'impiegata in una ditta che fa assistenza su macchine utensili, quindi sono dall'altro lato della barricata, mi trovo bene e perlomeno sono apprezzata per il mio valore. E il rapporto con tuo padre? Dopo, col mio secondo figlio, si è un attimino riappianato, però il primo figlio comunque, come per Lorenzo, non l'ha voluto vedere, l'ha presa malissimo quando ha saputo che ero incinta, e fai conto che mio figlio ha conosciuto suo nonno che aveva tipo 4-5 anni, quindi, cioè, anzi, si è anche posto il dubbio di da dove venisse questo uomo, perché mai sentito, mai visto. Lo immagino. E adesso vabbè, tutto va bene, cioè va bene, nel senso, rapporti formali, ci vediamo, tutto quello che è, insomma, diciamo, una famiglia non particolarmente espansiva, però il rapporto lavoro è questo. Io ho dovuto scegliere di andare via perché non si poteva vivere così comunque, poteva continuare, ecco. Alessandra, ti ringrazio e ti faccio un sacco di bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo da Filippo. Filippo da Torino. Pronto, Filippo? Ciao Matteo, un piacere sentirti. Ciao, anche per me. Tu sei nipote di imprenditore. Sì, il nipote di un imprenditore che negli anni 70 aveva un'azienda con oltre 170 dipendenti. Io sono entrato nel 95, adesso ho 43 anni, si era già avviato un declino perché la seconda generazione, diciamo così, aveva forse poca voglia o poca capacità, la seconda generazione intendo mamme, zie, zii, e sono arrivato a essere, partendo dal magazzino, facendo tutta la trafila delle piccole, insomma, l'iter per cui ti fanno partire dal basso e poi arrivi più sono o meno. Arrivato a essere l'amministratore delegato di una delle società con riuscito a fare un turnaround, quindi portare utili eccetera, ma ciò nonostante c'era sempre un conflitto, quindi il mio schiaffo non è stato fisico, è stato di altro genere, perché a un certo punto nel 2004 guarda, devo chiudere Filippo, se mi racconti la fine solo, che ho 10 secondi. La fine è stata che nel 2004 ho abbandonato la società con utili che andava, diciamo, in un'altra direzione rispetto a quella di prima. E cosa fai adesso? Perché mia madre, non mio padre, e adesso cosa faccio? Faccio vendo impianti fotovoltaici con successo e con soddisfazione. Filippo, sto cercando di andare a vivere in Sudafrica. Ok, in bocca al lupo allora. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Che ci sono quelli di Chiedo Asilo di là che battono dal veto. Grazie a tutti, grazie in particolar modo a Lorenzo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Sandro, abito a Nova Milanese. La storia di domani è la mia e parla di giochi che facevamo in quel periodo della nostra infanzia. Questa è la mia storia e io sono qui.